ringrazio di essere venuti qui al Teatro Cristallo, che ci aiuta in questo periodo nel proseguimento della promozione alla lettura e ci mette a disposizione occasionalmente appunto la Sala Giuliani, che è questa, il secondo piano. Questa sera sono particolarmente contenta di avere qui con noi Vincenzo Calì, dell'Università di Trento. Abbiamo poi Giuseppe Colangelo, insegnante, e abbiamo Orfeo Donattini, che è presidente dell'ANPI, sezione di Bolzano. Ci presenteranno il libro Alpen Fornand e Resistenza, tra testimonianze e un testamento, un tema che ci aiuta ad avvicinarci anche a quello che sarà poi il periodo dei festeggiamenti del 25 aprile, ed è anche una nuova occasione che la biblioteca ha per collaborare con l'ANPI, un'associazione con cui da anni portiamo avanti anche un percorso dedicato alla memorialistica e anche alla raccolta di interviste di testimoni che sono ancora vivi, presenti e ci regalano i loro ricordi preziosi anche per così sistemare un quadro storico che è già ufficializzato, ma che poi manca magari in alcuni casi di alcuni aspetti più legati alla persona e alle vicende umane, e quindi anche forse per certi versi molto emozionanti. Io vi ringrazio perché questi sono temi appunto che ci riguardano molto da vicino, riguardano in particolare questo territorio, con antitesi e contraddizioni e forse anche ancora degli aspetti da chiarire, da digerire, ma che attraverso la lettura, la cultura e l'incontro possono trovare forse anche una soluzione vicina. Ringrazio appunto i nostri relatori che ci danno una nuova occasione per stimolarci in un percorso di lettura autonomo. Vi segnalo quelle che sono le prossime anche iniziative della biblioteca. Giovedì di questa settimana, il 26, sempre alle ore 18, presentiamo una delle tesi premiate quest'anno. Facciamo questo ciclo di conferenze intitolate La ricerca in Alto Adige. Questa volta toccherà alla dottoressa Silvia Ferrazzoli, che ci presenterà la propria tesi, La toponomastica altoatesina, vicende storiche e sociolinguistiche. Saremo però al Liceo Classico in Via Manci, ecco, un altro partner che ci aiuta in questo periodo. E infine vi volevo segnalare lunedì prossimo, un'occasione anche particolare, l'ex direttrice della Galleria Borghese, la dottoressa Alba Costa Magna, ha donato alla biblioteca provinciale un anno e mezzo fa la propria biblioteca, quindi la biblioteca personale, con pregevoli anche libri preziosi, interessantissimi. La biblioteca li ha catalogati e appunto a conclusione di questo percorso li presenteremo a questa biblioteca. Soprattutto ci aiuterà in questa presentazione la dottoressa Costa Magna, che sarà appunto, verrà da Roma qui a Bolzano con noi, e ci sarà una conferenza presso il Centro Trevi lunedì prossimo alle ore 18. Ecco, io chiudo qui il mio spot pubblicitario delle iniziative della biblioteca. Vi invito anche a frequentarci, siamo in via Mendola 5 e soprattutto organizziamo anche degli incontri di information literacy per imparare ad usare autonomamente i servizi che la biblioteca mette a disposizione e che possono essere utilizzati anche da casa, in treno e comunque con uno smartphone, iPad e tutta la strumentazione di ultima generazione che ormai è nelle case di tutti noi. Grazie ai nostri ospiti e soprattutto anche volevo ringraziare il procuratore, il dottor Costantini, che è qui con noi questa sera insieme a Leonardo Bertotti. Grazie. Allora, la presentazione della direttrice Trevisan credo che sia esauriente. Io vi ruberò proprio pochi minuti, pochissimi. Intanto per ringraziare la direttrice Trevisan, perché devo dire che con lei la collaborazione è davvero costruttiva. Non so se è acceso. Sì, sì. La collaborazione è davvero costruttiva e è sempre al nostro fianco per tutta una serie di iniziative, compresa quella di questa sera. Naturalmente vi ringrazio tutti quanti, ringrazio anch'io perché è davvero un onore avere fra di noi il procuratore Costantini, che poi magari ve lo ricorderà direttamente, ma è l'artefice di quel processo Seifert, l'aguzzino del lager di Bolzano, che ha riportato un po' di giustizia e di speranza su quel capitolo tragico del lager di transito Gries che si trova a Bolzano, e rispetto al quale ho l'impressione che molti bolzanini ancora non abbiano ben chiaro di che cosa si sia trattato realmente, e forse anche perché oggi di quel lager abbiamo purtroppo o per fortuna, poi lì le chiavi di lettura possono essere diverse, abbiamo soltanto il muro di recinzione, non abbiamo altre testimonianze dirette come invece accade in altri luoghi sia di transito che di sterminio, a maggior ragione presenti in Germania e in Polonia o nell'est Europa. Detto questo, proprio per sottolineare la necessità di fare memoria e continuare a fare memoria, tutelare la memoria, proprio con il pieno apporto dell'archivio storico del Comune di Bolzano, con l'apporto e l'esperienza della direttrice Trevisan della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, ma anche con l'archivio storico provinciale e in particolare l'archivio di Stato che è presente nella nostra città, come ANPI stiamo elaborando un progetto probabilmente ambizioso, me ne rendo conto, ma che andrà sicuramente a colmare una sorta di lacuna che c'è attorno al lager. Perché non a caso vi accennavo prima che la sensazione girando in città è che ci siano molti bolzanini che non ne conoscono appieno la storia. E allora, siccome c'è solo il muro, e quel muro è una testimonianza fortissima, però poco emotiva se vogliamo, abbiamo pensato una cosa molto semplice in sé, che è quella di ricreare attraverso una piattaforma web il lager di Bolzano, attraverso tutte le immagini storiche possibili, attraverso la messa assieme in maniera organica di tutte le testimonianze che sono state raccolte, attraverso tutte le attività di ricerca che all'interno delle varie università sono state elaborate, vuoi con tesi, vuoi con approfondimenti professionali, in modo da, e poi ci sono rappresentazioni teatrali e quant'altro, in modo da ricreare virtualmente la realtà nel suo complesso del lager di Bolzano. E perché lo facciamo attraverso il web, una piattaforma web? Perché una delle necessità assolute è quella di fare memoria raggiungendo i nostri giovani, raggiungendo gli studenti, e attraverso il web, voi mi insegnate, abbiamo davanti un'autostrada da percorrere, tutta dritta, tutta ampia, tutta da riempire di contenuti e da portare all'attenzione e alla sensibilità delle giovani generazioni, perché è solo con questo passaggio, riteniamo, si possa davvero tutelare la memoria e fare promozione culturale e democratica. Venendo invece al libro del professor Calì, che peraltro conosco e del quale sono amico da molti anni, anche per i miei trascorsi professionali in quel di Trento, Alpen Forlande Resistenza, tre testimonianze e un testamento politico, è una sintesi, poi ovviamente ve ne parlerà approfonditamente proprio l'autore, oltre che il professor Colangelo, e è una piccola sintesi che è un gioiellino, perché ci dà una dimensione assolutamente anche nuova, con una luce nuova su tre personaggi che anche per noi, perché stiamo parlando ad esempio di Corsi, ovvero Andrea Mascagni, che anche per noi hanno avuto in Alto Adige un ruolo e un protagonismo di altissimo profilo. Però mi piace, l'ho già citata questa breve frase proprio di Mascagni, mi piace ricordare questa frase del nostro Corsi, perché l'obiettivo e la connotazione del nostro impegno, del nostro fare cultura, del nostro fare memoria, non è orientato o improntato alla celebrazione o alla celebrazione trionfalistica della Resistenza. Lo spirito è diverso ed è esattamente quello con il quale Mascagni introduceva spesso i suoi interventi nelle varie e molteplici occasioni di commemorazione. Abbiamo il dovere di dire che nessuno spazio deve essere concesso alla grande o alla piccola retorica, sottolineava. Nessun atteggiamento puramente celebrativo deve trovare cittadinanza in chi opera alla luce degli ideali della Resistenza. Nessun cedimento deve essere tollerato verso esaltazioni astratte o illustrazioni trionfalistiche. Ecco, questo è, credo, lo spirito con il quale noi ci accingiamo giorno dopo giorno a lavorare, perché abbiamo la consapevolezza che democrazia, così come pacifica convivenza, così come tolleranza, non sono obiettivi e traguardi conquistati una volta per tutte. Si tratta di un lavoro giorno dopo giorno, anche con il piccolo mattoncino che ognuno di noi può dare, perché altrimenti davvero né noi né soprattutto le giovani generazioni avranno la possibilità di sperare in un futuro di democrazia e di libertà. Detto questo, io passerei, vi ringrazio nuovamente, passerei la parola al professor Colangelo e poi al professor Cali. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Una delle prime cose che io ho capito quando ho deciso e ho scelto di vivere in Trentino e ho cominciato a occuparmi di resistenza, che era, come dire, l'argomento fondamentale del mio interesse in campo storiografico, pur non essendo uno storico. Ecco, una delle prime cose che ho capito è che per quanto riguarda il Trentino e l'Alto Adige, studiare un fenomeno come la Resistenza, che era stato in Trentino di poca consistenza e nell'Alto Adige ancora meno, questo però implicava un lavoro supplementare, perché le questioni non erano così semplici come altrove, ammesso che in questa materia esistano delle cose semplici. Qui c'erano davvero ulteriori e pesanti complicazioni di carattere storico, di carattere politico, economico, e prima di pronunciarsi su questi argomenti bisognava conoscere a fondo alcune questioni di carattere storico. Perciò non me ne vogliate se un po' didatticamente è un'abitudine che non ho perso, anche se sono da 4 anni fuori dalla scuola, ho evitato in tempo di farmi fare prigioniero dalla Fornero, mia moglie invece è in prigione completamente, e io voglio ricordare, sia pure in maniera così sintetica, i dati della questione di fondo, cioè che cosa è accaduto di fatto dopo l'8 settembre. Ecco, subito dopo l'8 settembre del 43, i tedeschi, oltre ad occupare militarmente l'Italia centro-settentrionale, si affrettarono a creare l'ordinanza istitutiva del 10 settembre del 43 nella parte nord-orientale della penisola, 2 zone di operazioni sottoposte al loro immediato controllo politico, militare e civile. La zona di operazioni delle Prealpi, Alpenvorland, e la zona di operazioni del litorale adriatico. La prima, cioè l'Alpenvorland, comprendente le province di Bolzano, di Trento e di Belluno, fu affidata al Gauleiter del Tirolo e Vorarlberg Franz Hofer, La seconda, che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana, al Gauleiter della Carinzia, Friedrich Rainer. I due, nominati commissari supremi direttamente da Hitler, ricevettero pieni poteri e un solo suggerimento, una sola raccomandazione: evitare che tale occupazione speciale, così era definita nel documento di istituzione, potesse essere subito interpretata dal governo fascista come un annullamento della sua sovranità. Ecco, in realtà, nonostante l'invito a salvare almeno le apparenze, ciò che si voleva dai due commissari supremi era la corta realizzazione di un disegno politico generale, il cui principale obiettivo era l'annessione di questi territori al Reich. Del resto, il fatto che già dal luglio 1943 a Innsbruck e a Klagenfurt fossero stati organizzati, rispettivamente da Hofer e da Rainer, due uffici col preciso scopo di studiare il modo di riconquistare i territori perduti dall'Austria in seguito alla Prima Guerra Mondiale, sta lì a dimostrare che il progetto, nei suoi tratti essenziali, era stato discusso con buon anticipo. L'armistizio firmato dall'Italia l'8 settembre diede dunque ai nazisti solo l'utile pretesto per mettere concretamente in atto quel progetto. Gli effetti di tale manovra annessionistica per Mussolini e l'estremo fascismo di Salò risultarono a dir poco disastrosi. Se la Repubblica Sociale Italiana, per essere nata sotto la pesante tutela del Reich, scontò ovunque una evidente subalternità al nazismo, nelle zone di operazioni fu del tutto esautorata. Qui infatti sia Hofer che Rainer si comportarono sempre come le uniche indiscusse autorità, decisi ad attuare un programma di rapida germanizzazione dei territori da essi amministrati, opera nella quale si distinse soprattutto Franz Hofer, ma devo dire che i due facevano a gara in maniera molto fanatica, che era un uomo ambizioso, astuto e perfidamente abile, che pur di cancellare dalla regione trentina i segni di italianità, non esitò a far sequestrare alcuni documenti storici conservati presso il Museo del Risorgimento di Trento, si chiamava così allora, adesso si chiama Museo Storico, e quello della guerra di Rovereto, arrivando poi alla liquidazione anche formale della sovranità fascista, quando vietò nella zona di operazioni delle Prealpi il giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, con una comunicazione del 30 marzo del 1944, Hofer ordinò a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di non pronunciare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Sociale, appunto. Atti sicuramente clamorosi che, sommati a tanti altri meno eclatanti, ma di certo non meno efficaci, danno la misura tangibile e concreta dello strapotere esercitato dal Gauleiter tirolese nell'Alpenvorland, strapotere di cui subirono il peso tutti i settori della vita civile. A Trento, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, la situazione politica non era ancora del tutto chiara. Hofer, dopo la subitanea occupazione militare, aveva imposto con abili lusinghe e concrete minacce un rigido clima d'ordine, ma stava ancora cercando la soluzione politica più adeguata, ben consapevole di non poter contare sull'appoggio di quei circoli nazisti che a Bolzano gli avevano preparato un certo consenso. A complicargli ulteriormente le cose intervenne l'ex prefetto fascista, il teramano Italo Foschi, tornato improvvisamente in città il 15 settembre per per, cito testualmente, riassumere il governo della provincia in obbedienza agli ordini del duce. Foschi, che non conosceva i piani dei tedeschi, credeva di poter riorganizzare senza difficoltà uomini e strutture del fascismo trentino anteriore al 25 luglio. Anzi, ne era talmente convinto che per prima cosa decise di far stampare un giornale che attestasse e spalleggiasse la ripresa del fascismo. E così nel pomeriggio di giovedì 16 settembre 1943, fornito di datazione fascista di un sottotitolo quotidiano del Partito Fascista Repubblicano, rispondente alle intenzioni del prefetto, inizia le pubblicazioni Il Trentino, che era la prosecuzione del quotidiano Il Brennero, che aveva, come dire, che era stato il principale quotidiano dalla presa del potere del fascismo in avanti. Hofer, in un primo momento, colto di sorpresa, non era riuscito ad impedire l'uscita del giornale, però nel giro di poche ore corse ai ripari con molta energia. Già venerdì 17 settembre era a Trento, sospese le pubblicazioni del quotidiano, licenziò Foschi e al suo posto chiamò l'avvocato trentino Adolfo De Bertolini. Io fermo qui il quadro perché, come dire, questi sono i dati essenziali, il contesto nel quale ci muoviamo, e vanno a situarsi anche le testimonianze che sono appunto l'oggetto di questo libro. Allora, comincerei in questo modo. La mia formazione letteraria, quindi scuso per autocitarmi, non è che ha improvvisamente avuto un attacco di narcisismo, quello che dico è assolutamente funzionale al discorso che sto per fare. Mi ha aiutato perché? Perché io in realtà ho appreso subito una lettura antiretorica della Resistenza, essendo lettore precoce per i miei anni del Sentiero dei Nidi di Ragno di Italo Calvino, ma poi ancora di più un fan scatenato di Beppe Fenoglio e di Luigi Meneghello. E voi, se ricordate soltanto alcuni dei libri di questi autori, vi rendete conto di che cosa sto dicendo, perché in realtà questi due autori hanno faticato a far passare quella che era la loro visione della Resistenza, una Resistenza assolutamente non celebrativa e non retorica, dovendo scontrarsi anche con i vecchi partigiani dell'Ampi, i quali dicevano che così la Resistenza veniva quasi sbeffeggiata. In realtà, vuol dire, bisogna essere pronti a fronteggiare queste obiezioni, e se uno legge bene tutto Fenoglio e legge bene quello che ha scritto Meneghello, ci si rende conto che quella è sicuramente la difesa più dignitosa della Resistenza. Meneghello, nonostante nei Piccoli Maestri parli della sua banda partigiana, insomma, iniziare un passaggio in cui si dice eravate bravi a fare la guerra, lui diceva eravamo bravi a fare le fughe, in realtà. Ecco, questi sono passaggi che sicuramente si pongono immediatamente contro la visione retorica della Resistenza. Però diceva che in quel marasma che c'è stato in quegli anni, dice Meneghello, noi eravamo la sola cosa decente che ci fosse in circolazione. Non è vero che non c'è una difesa. Bene, dove voglio arrivare? Io sono entrato immediatamente in sintonia con queste testimonianze, perché questa è la cifra che è stata detta, è stato detto benissimo, che distingue queste testimonianze. Qui abbiamo tre testimonianze di persone della stessa generazione, cioè abbiamo un Enrico Serra che era azionista, da tre angolazioni diverse, anche per questo molto interessante, che era del 1914. Poi abbiamo un cattolico democratico, Giovanni Gozer, con simpatie personali per il Partito d'Azione, che era del 1915 e sarà il centenario quest'anno della nascita di Giovanni Gozer, e poi è un comunista come Andrea Mascagni, ma qui insomma vuol dire è diventato comunista attraverso, potremmo dire, un romanzo di formazione. La resistenza può essere raccontata per molti giovani come un romanzo di formazione, intesa anche come formazione politica, cioè uscire dalle nebbie delle incertezze, delle di letture un po' farraginose, e pian piano maturare una coscienza politica che porta all'acquisizione di una scelta, perché anche sul problema della scelta io vorrei ricordare a molti di voi che la sapranno a memoria questa vicenda. C'è un punto del Sentiero dei Nidi di Ragno in cui dice Calvino: basta un tentennamento dalla coscienza e ci si trova dall'altra parte. Le scelte precise era di chi aveva già precedentemente una formazione conclusa e sicura, ma per molti giovani è la resistenza, è stata resistenza soprattutto di giovani, le cose non sono state così semplici. Bene, è stato ricordato la frase che Mascagni soleva ripetere tutte le volte, e me lo ricordo anch'io, che è stato chiamato a nelle date, nelle scadenze, alla celebrazione di alcune date canoniche della resistenza. Qui nella testimonianza che Vincenzo Calì ha raccolto, questo dato è visibile con grande nettezza. Basta leggere un passaggio come questo: la resistenza nella nostra regione è rimasta circoscritta alla presenza di minoranze combattive e tenaci, votate inevitabilmente al sacrificio, precluse dalla possibilità di dar vita a un movimento di massa. L'episodica è vasta e ricca di aspetti interessanti e significativi, ma fatta salva l'incidenza apprezzabile di centri politicamente organizzati e di momenti particolari di rilievo, è pur sempre un'episodica, articolata a livello di persone o di piccoli gruppi che cospirano, stabiliscono contatti in ambiti territoriali e nei luoghi di lavoro, effettuano azioni di collegamento e di aiuto nei confronti delle iniziative più organiche, agiscono anche direttamente quando le circostanze lo permettono, con azioni di disturbo, di piccolo sabotaggio, o più spesso si preparano, tra virgolette, perché era il termine che veniva usato da tutti, per il momento atteso di vere e proprie formazioni partigiane armate che si organizzino militarmente per la guerriglia, in grado di impegnare comunque il nemico e siano in grado di coinvolgere in una vasta azione di sostegno diretto o indiretto settori interi di popolazione, non è possibile parlare se non come momenti singoli, eccezionali e limitati. Ecco, questo è la cifra non solo stilistica ma anche etica che è stata scelta e che vediamo ritornare anche nelle altre testimonianze. Dopodiché, certo, Fausto Corsi, ecco, nome di battaglia, anche se due nomi di battaglia, insomma, sono stati fatti degli studi raffinatissimi che estremamente piacevoli, fanno emergere l'immaginario dei partigiani. Cosa fa? Dice a Fagioli. Sì. Immaginario è assoluto. Sì, sì. Dalla cultura popolare, ai fumetti, ai romanzi, agli eroi del cinema, c'è un campionario vastissimo. Bene, cosa fa Mascagni? Cerca di spiegare a se stesso e anche agli altri le molte ragioni storiche e psicologiche che hanno impedito il formarsi di un vasto movimento di resistenza, cosa che, come sappiamo, è accaduto in zone limitrofe, e pensiamo all'attivissima provincia di Vicenza, tanto per non andare neanche oltre, no? Se noi andiamo a vedere il contributo dato dalla regione come il Veneto, è assolutamente il più elevato, o come il Piemonte o come altre regioni. Allora si tratta di spiegare a se stessi e agli altri che cosa c'è, che cosa ha impedito nella realtà dei fatti il formarsi di un vasto movimento resistenziale. E qui le ragioni psicologiche e storiche vengono colte davvero bene. Per quanto riguarda il Trentino, cioè non si può non risalire almeno al periodo in cui, come dire, il Trentino, dopo essere rientrato, diciamo, nella nazione italiana, si è visto arrivare nel giro di 3 anni, come dire, il fascismo. Cioè, l'immagine dell'Italia che poteva arrivare ai trentini era un'immagine fatalmente condizionata dai 20 e più anni di dominio fascista. E certo, i trentini hanno visto arrivare, questo è accaduto anche a Bolzano, però poi ci sono delle differenze. Nei confronti di Bolzano ci sono stati investimenti massicci perché si voleva italianizzare completamente il territorio, come dire, togliendo agli altoatesini persino, come dire, la lingua e la cultura. E quando tu tenti di togliere la lingua e la cultura, che non solo un mezzo di espressione ma di formazione anche delle idee e dalla propria coscienza, evidentemente questo non può che creare risentimenti che poi dureranno per intere generazioni. Naturalmente Mascagni fa anche un'analisi della composizione sociale del Trentino e dice che nel Trentino manca una classe operaia che altrove, come dire, è stata la base anche per la formazione politica, essendo una regione prevalentemente, come dire, a sfondo contadino, di formazione cattolica. E qui va anche a fare una distinzione abbastanza interessante, come dire, fra cattolici democratici e cattolici democristiani. E lui dice: noi i cattolici democratici li abbiamo visti, la Democrazia Cristiana molto, molto meno in realtà. Adesso, come dire, è difficile entrare nel dettaglio di queste testimonianze perché si sarebbe costretti a fare, come dire, una sequela di nomi e di fatti che mi metterebbero in difficoltà anche in questo momento. Quindi non posso che tentare di cogliere i dati di fondo di queste testimonianze. Ma a ulteriore dimostrazione di come l'impostazione di Mascagni sia quella giusta, e cioè appunto il percorso di una visione antiretorica della resistenza, basta vedere come Fuori dai denti prende posizione contro un personaggio che ha avuto il suo ruolo nella resistenza e che ha scritto proprio in quegli anni la testimonianza un libro, cioè Ariele Marantoni, il quale aveva pubblicato nel 1974 un libro intitolato Attenzione, bande armate giorno e notte, Tamari Editori, Bologna, 1974. Qui Mascagni non è che siccome si era partigiani, come dire, va un facile ambrasson nu. Invece no, critica apertamente il libro di Ariele Marangoni, ci conterrà anche alcune informazioni importanti, però attenzione, partiamo da un dato che già, come dire, non fa tornare i conti: il fatto che lui si proclami comandante della formazione Battisti, quando nessuno dei superstiti gli riconosce di fatto questo ruolo. E poi entra anche nel dettaglio di alcune affermazioni e le rovescia. Quindi, come vedete, questo atteggiamento legato a una visione critica della resistenza è chiaro fin da subito. Per quanto riguarda continuando su questo filo dell'interpretazione antiretorica della resistenza, ecco, certo, nella testimonianza di Mascagni non potevano non essere ricordati gli episodi più importanti, e in particolare il rastrellamento del 23 maggio 1944, appunto operato dai tedeschi e da un paio di compagnie del CST, e ai danni appunto della formazione partigiana della Valcavino, e poi ancora di passata, ma vuol dire il ricordo di quello che è stato compiuto dai nazisti il 28 giugno del 44 ad Arco, Riva e Rovereto, in particolare, che ha stroncato, come dire, definitivamente i capi anche della resistenza, no? Noi sappiamo che nel corso appunto di questa retata viene catturato Antonio Manci, che però poi verrà portato a Bolzano, torturato più volte, e come dire, per evitare di fare nomi e di farsi estorcere confessioni sotto tortura, approfitterà di un momento di distrazione della sorveglianza per suicidarsi gettandosi. Opinioni diverse. Sì, va bene, poi vedremo come possiamo. Io sono di questa opinione, sì. Ho sentito opinioni diverse. Va bene. Sarà suicidato dalla destra. Dalla? Suicidato dalla destra. No, suicidato dai tedeschi. Suicidato dai nazisti. Sì, va bene, ne possiamo parlare. I malori attivi si può parlare. Valori attivi. Sì. Esperienze che abbiamo visto anche successivamente nella storia più recente, sì, sì. Beh, sì, a Questura di Milano. Allora, e poi naturalmente queste testimonianze, anche dalle altre, ci sono delle annotazioni sul campo di Bolzano, appunto. Ecco, che non può essere considerato soltanto un campo di transito, perché non lo è stato per quello che è accaduto dentro questo campo, e come dire, ci sarebbero ancora alcune questioni di fondo da studiare. Per esempio, in una prima fase molti, ahimè, testimoni di quello che accadeva poi nel campo, come dire, a questi è stato detto: ma non c'era una sorveglianza così marcata nel campo di Bolzano, non si poteva tentare la fuga? Bene, andatevi a rileggere quello che dice, torno alla letteratura, insomma, quelle sono le mie fonti principali, quello che dice Mario Rigoni Stern, e lui è stato catturato da alcuni cacciatori altoatesini, che col fucile alla mano l'hanno preso, l'hanno consegnato ai tedeschi. La stessa cosa è accaduta anche al filosofo Pietro Chiodi, il maestro di Beppe Fenoglio, il professore di Beppe Fenoglio ad Alba, il quale è passato per il campo di Bolzano e ha detto: se noi provavamo a fuggire, c'erano i contadini tirolesi che ci catturavano e ci riportavano indietro. E questo apre, come dire, degli orizzonti sui quali non è facile pronunciarsi, però bisogna essere anche molto chiari. Quando qualcuno parla di regime, Serra questo lo ripete, si parla di regime peteinista, no? E questo implica il collaborazionismo, bisogna spiegare da che cosa poteva nascere appunto il collaborazionismo. Tanto poi questo coperchio, ancora prima delle parole, è svelato dalle immagini passate più volte in Rai dell'accoglienza che viene riservata ai tedeschi quando arrivano e occupano Bolzano, con offerta di fiori e vino. Vino e fiori, appunto. Allora, questo tedesco, quindi, che entrava. Sì. dobbiamo renderci conto questo. Sì, esattamente, a questo volevo arrivare. In questa accoglienza ci sono, come dire, 20 anni di dominazione sicuramente fascista alle spalle, che ha tentato di snazionalizzare completamente l'Alto Adige e di trasformarlo in una provincia, vuol dire, italiana da ogni punto di vista. Quello che mi crea qualche difficoltà, come a volte come spettatore di cose che sento, è quando viene utilizzata la parola antifascismo in alcuni contesti bolzanini. Gradirei una maggiore precisazione. Le parole hanno una loro identità e bisogna fare attenzioni. Non si può essere antifascisti perché si è contro gli italiani ritenuti tutti fascisti e schierandosi poi dalla parte del nazismo, perché qui stiamo stravolgendo completamente il senso della parola antifascista. Allora, antifascista significa essere, vuol dire, contro qualsiasi tipo di fascismo a 360 gradi, senza nessuna preclusione. Questa è una precisazione che mi sento di fare, pur stando completamente dalla parte degli altoatesini, ma non lo dico perché sono qui a Bolzano, per quello che hanno dovuto subire sotto l'occupazione fascista. Io sto da quella parte, cioè non ci si può schierare con una dittatura, non ci si può schierare con quella dittatura, ma non ci si può schierare neanche con l'altra dittatura, che è una dittatura alla ennesima potenza. Questo per me a livello personale è abbastanza chiaro. Prima di arrivare così rapidamente alle conclusioni, vorrei passare alla testimonianza appunto di Giovanni Gozer. La testimonianza di Gozer mi sembra, come dire, la più lucida e organizzata dal punto di vista anche del racconto e della metodologia del racconto. Devo dire, Vincenzo lo ha saputo prima di me. Chiedere testimonianza a Giovanni Gozer su questi fatti non era facile per niente. Lui a un certo punto ha chiuso completamente i ponti con questa esperienza. Ma per quale ragione? Proprio per un senso, come dire, di tristezza assoluta, quando si è reso conto anche delle manovre che venivano fatte appena chiusa la resistenza. E lui era presidente del CLN Trentino, poi nominato provveditore agli studi, a un certo punto si è dimesso da tutte e due le cariche perché ha visto arrivare troppa gente a chiedere patenti di antifascismo, e ha visto queste patenti di partigiani appunto essere concesse con troppa facilità. A chi? A gente che si era limitata a seguire da lontano, dice lui, i tedeschi in ritirata e aver raccolto qualche fucile. Ma questo non basta, perché lui invece si ricordava di tutti quei giovani anonimi, anche trentini, che avevano combattuto in formazioni non strettamente legate al territorio trentino, di cui nessuno faceva mai i nomi. E lo stesso atteggiamento molto polemico del mio amico scrittore Ferdinando Camon, il quale dice: io ogni volta che vedo un libro sulla resistenza vado all'indice dei nomi, e appena mi accorgo che nell'indice dei nomi c'è Concetto Marchesi e gli altri, va bene, e non sono citati i partigiani della Bassa Padovana, tra cui suo cugino, un ragazzo che viene catturato, lo legano con una corda al collo e gli dicono: noi adesso te piccare, se non fare nomi. Il ragazzo di 18 anni parte, calci negli stinchi ai tedeschi. Lui dice: se non vedo nominato mio cugino Giulio Biscazzo, va bene, quello non è un libro sulla resistenza. Ora, attenzione alla vis polemica di Camon, ma su alcune ragioni, cioè alcune cose ha ragione. Con tutto rispetto per Concetto Marchesi, d'accordo, l'appello agli studenti di Padova, quello che volete, però Concetto Marchesi ha preso 5-6 mesi di stipendio e poi stava in Svizzera, va bene? Mentre i ragazzi della bassa padovana ci hanno rimesso. Gli altri professori nell'area di Bolzano. Ci hanno rimesso. Alcuni altri docenti dell'Università di Padova nell'area di Bolzano perché sono andati nella Resistenza. Questo è stato il valore di Marchesi. Sì. L'esempio che ha dato. Sì, ma vuol dire, nessuno. Attenzione a fare le proporzioni, a fare le proporzioni. D'accordo, avrà avuto un'autorevolezza maggiore del cugino di Camone, però ha ragione anche Camone, ha ragione anche Gozzer quando dice io mi tiro indietro perché queste persone umili che hanno rischiato la pelle ogni giorno non vengono nominate e invece bisogna studiare e andare a scoprire le loro storie. Grazie a questa testimonianza che ha raccolto Vincenzo Calini, io ho potuto, come dire, scoprire che l'autore di questo libro pubblicato con pseudonimo, si era fatto chiamare Brentano, va bene, era Giovanni Gozzer, La morte canta sull'albero. E qui ho trovato le stesse difficoltà sue. Perché Gozzer, quando io ho tentato di mettermi in contatto con lui che viveva a Roma, ho detto, guardi professore che qui vale la pena riprenderlo, mi creda quel libro, lui ha detto, ma no, per carità, è una cosetta da niente, non se ne parla neppure, insomma, ho dovuto lavorare più di un anno, sono andato 3 o 4 volte a Roma e solo quando si è reso conto che ero ben intenzionato ha dato la liberatoria, abbiamo la lettera al museo, la liberatoria appunto per questo libro. E tutto... Se posso avere un inciso proprio, sì. Fu grazie a Paolo Prodi, sì. Paolo Prodi, il nostro rettore dell'Università di Trento, che io ebbi quel contatto con Giovanni Gozzer, e fu grazie alla mediazione di Paolo Prodi che Giovanni Gozzer si decise a lasciarmi la testimonianza, no? Per dire quanto, cioè ci fu una voce autorevole con Giovanni Prodi che lo portò a dire no, questo giovane ricercatore tu dagli la testimonianza, fidati. Perché appunto come diceva Colangelo l'atteggiamento di Gozzer è un atteggiamento molto riservato, molto sì, riservato. Sì. È assolutamente fino alla fine e qui puoi dire ma cos'è successo a me? È successo questo che quando tu sei nella biblioteca di Rovereto, lo dico nella prefazione, e per caso cerchi questo libro perché ti incuriosisce il titolo La morte canta sull'albero, no? È un titolo inquietante, anche strano, e poi, ma questo non può bastare, Brentano, beh, insomma io ho detto, ma Brentano questo qui è stato il maestro di Karl Kraus, che era vero, ma cosa c'entra con questo libro? E invece poi, quando ho scoperto, lo dichiara in questa testimonianza, che lui le cose che aveva da dire le ha dette nel racconto Carducci, dove fa vedere proprio il sacrificio di questi giovani anonimi. Lui l'ha fatta quella, la sua giustizia, piccola giustizia personale, attraverso questo racconto. Ma quando il primo racconto, sentite l'incipit, dice: quando il maresciallo Tribus e il sergento Buecker delle SS dislocate nella zona di operazione delle Prealpi vennero ad arrestarmi la mattina del 20 settembre 1944, non fu certo per me una sorpresa. Volgevano già gli ultimi mesi di guerra, i tedeschi che occupavano la regione delle Prealpi, ossia le province di Trento, Bolzano e Belluno, risentivano del nervosismo dei loro comandi, impegnati in una lotta mortale sul fronte sud, dove ormai si delineava imminente la rottura delle loro ultime linee difensive. La zona delle operazioni delle Prealpi fu annessa praticamente al Reich tedesco e incorporata in una specie di feudo personale di Franz Hofer, l'onnipotente Gauleiter nazista che dominava il Tirolo e l'Alpenforland dalla sua tana di Innsbruck. I tedeschi non si può dire vi avessero trovato particolari difficoltà alla loro occupazione amministrativa e militare, anzi il vecchio Tirolo austriaco, l'Alto Adige, incorporato all'Italia nel 1918, aveva accolto con non dissimulato entusiasmo i fratelli germanici, con maggior circospezione, ma non senza qualche isolato incoraggiamento, essi erano stati accolti nella provincia di Trento da antichi notabili nostalgici della dominazione asburgica. E qui forse possiamo aggiungere, Vincenzo Calì, che è storico, potrà essere, come dire, più di me preciso in questione, che sono, non è soltanto le nostalgie austriache, ma si incontra con un personaggio che, De Bertolini, che è intimamente convinto che in fondo questa scelta sia il male peggiore, anziché il male minore, anziché andare allo scontro formale. Cioè lui viene nominato dal Gauleiter Hofer, prefetto di Trento, e a questo punto potrà difendere meglio, come dire, il Trentino dal disordine e dalle violenze che dominavano la storia di quel periodo. Però anche sul personaggio di De Bertolini la discussione è stata lunga ed è ancora estremamente aperta, perché il Museo Storico conserva documenti in cui si parla dell'uso del CST nei rastrellamenti contro i partigiani. Forse qualche volta questo tentativo di restaurare l'ordine è stato fatto con troppo zelo. Scusi, cos'è il CST? Il Corpo di Sicurezza Trentino. Veniva offerta ai giovani. Era la polizia praticamente che sostituiva i carabinieri, sì. Mentre il Corpo di Sicurezza Trentino era un corpo di sicurezza molto armato che ha partecipato a tutte le stragi, compreso Margherita Bosco. Hanno sparato. No, dicevo in via Calepino, Trento. Sì. C'è lo studio, sì. La famiglia, certo, sì. Le generazioni, e c'è una targa, le cui ultime parole dedicate a Lopez, nel duro travaglio di che non si uffici, cioè mi sono dovuto fare per sì. Salvare e salvare. Sì. Ma sì, che l'abbia anche fatto, credo. Sì. Sì, sì. Certamente Gozer è talmente onesto dalla testimonianza che arriva a salvare persino la buona fede di alcuni giovani fascisti che hanno fatto la scelta della RSI convinti di stare dalla parte giusta. Ecco perché, come dire, è un testimone di grande valore, ma anche per questo fatto di essersi chiamato indietro e non voler recitare nessun ruolo di protagonista. Invece dalla testimonianza di Gozer, che è fondamentale, perché il libro La morte canta sull'albero è uscito nel 58 per l'editore Cappelli di Bologna e poi è rimasto sostanzialmente ignorato, cioè io non ho sentito mai nessuno parlarne di fatto. Ma lì c'è già la chiave antiretorica, ci sono pagine straordinarie sul modo di scegliersi il nome da parte dei partigiani, e poi c'è questo, come dire, tributo alla generosità della gente anonima dentro un quadro di una resistenza che lui dice è un fenomeno assolutamente minoritario, quindi attenzione a non gonfiare nessun dato. Io direi che ho approfittato fin troppo della vostra pazienza e mi fermerei qui per cedere la parola al professor Calì. Grazie davvero per l'attenzione. Prima dell'intervento del professor Calì, siccome far memoria, promuovere cultura democratica e vivere giorno dopo giorno, come accennavo prima, il nostro impegno a favore della democrazia e per il rispetto e la difesa della Costituzione, vorrei, e mi piace tantissimo che ci sia questa presenza stasera, che mi dà l'occasione proprio di dimostrare quanto sia attuale e quanto sia presente anche al giorno d'oggi la necessità di tenere alta la guardia nei confronti di qualunque atto di intolleranza, qualunque atto di violenza. E dico questo perché voglio tornare ad esprimere la nostra solidarietà, come ho già fatto nei giorni scorsi, immediatamente dopo il fattaccio, a Giacomo Gatti, che è il giovane che è stato aggredito pochi giorni fa da una autentica, chiamiamola col suo nome, squadraccia fascista di giovani aderenti a Casa Pound, come ha accertato la Digos della polizia di Bolzano, e aggredito assieme ad altri due ragazzi in pieno centro, in Corso Libertà. Ecco, se ancora oggi avvengono questi episodi di violenza, vuol dire che il nostro impegno deve essere no al 100%, al 1000%, cercando di coinvolgere il più ampio strato di popolazione e soprattutto coinvolgere i giovani, perché questi fenomeni di violenza vengano assolutamente emarginati e soprattutto combattuti dalle istituzioni e dalle forze di polizia. Averlo qui fra di noi vuol dire che ha superato lo shock e le sue condizioni di salute non sono poi così male. Grazie Giacomo. Professor Calino. Grazie dell'invito, di questa occasione sull'antiretorica della resistenza, appunto stava alla base di questa volontà di ripubblicare queste testimonianze in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando. La Costituzione è nata dalla resistenza, no? Che sta alla base della nostra convivenza civile. Sappiamo che in questo momento è messa sotto attacco, no? Seriamente. Questo, quindi il ritorno ai valori che sono alla base della nostra Costituzione stanno in questo ruolo della resistenza, intesa nel senso in cui queste testimonianze l'hanno messa in luce, antiretorica, la realtà dei fatti mai gonfiata, mai appunto accentuata. In questo ci sta quella parte finale che io ho voluto inserire insieme alle tre testimonianze, che è il testamento politico di Gian Antonio Manci. Gian Antonio Manci era un autentico federalista, era un europeo ante litteram. Quando fu catturato a casa sua sulla collina di Povo dai nazisti dopo lo strillamento del 28 giugno, aveva in tasca una copia del manifesto di Ventotene, quel manifesto che appunto con Altiero Spinelli e Ernesto Rossi era partito come tentativo già nel 1941 di costruire in Europa una coscienza democratica che vedesse dei partiti europei uniti assieme nello sconfiggere il nuovo ordine hitleriano che prevedeva un'Europa, come sappiamo, legata alla follia hitleriana. E Gian Antonio Manci di quei valori del federalismo che erano inclusi nel manifesto di Ventotene si fece portatore come capo della resistenza trentina. E i documenti, il suo testamento politico, e di testamento politico si tratta, perché quando, tornando alla vicenda che ha legato il Trentino al collaborazionismo, quando si riunirono alla banca a Trento, Hofer chiamò tutti gli intellettuali e tutto l'entourage trentino dicendo: indicatemi voi un commissario civile che mi garantisca e mi mantenga la quiete e l'ordine in questa terra che per noi strategicamente, militarmente è molto importante, l'asse del Brennero. Tutti assieme indicarono il vecchio avvocato Adolfo De Bertolini, compresi gli antifascisti presenti, e Gian Antonio Manci era fra loro. Ma quando due giorni dopo uscì l'appello pubblico che terminava con riferimento alla vittoria, delle truppe germaniche, Gian Antonio Manci scrisse una lettera al commissario civile De Bertolini, che è il suo testamento politico, in cui lui disse: non possiamo noi accettare che tu vieni a firmare un documento in cui si parla di vittoria delle armi germaniche, no? Non rientra nei compiti che noi tutti assieme ti avevamo attribuito. Questa lettera inviata a Adolfo De Bertolini passò sotto le mani di Heinrich, che era, diciamo così, il responsabile diciamo così, per quanto riguardava il rapporto diretto con Hofer, e firmando quella lettera Manci firmò la sua condanna a morte, perché questo va chiarito da subito. Il nazismo sapeva individuare esattamente quali erano i veri nemici, i nemici più pericolosi, e li eliminava regolarmente, come fece con tutte quelle figure di federalisti che in Europa, nelle popolazioni europee, soprattutto nella Mitteleuropa, tentarono di arginare il modello hitleriano, cercando di contrastare il nuovo ordine hitleriano. Questi erano i nemici giurati del nazismo, e il nazismo non se ne fece sfuggire nessuno di questi qua. E come successe con altri esponenti della resistenza, penso ad esempio a Chanù, all'area appunto valdostana, vale anche per il Trentino e per il Sud Tirolo. Gian Antonio Manci, firmando quella lettera, inviandola direttamente a De Bertolini, firmò la sua condanna a morte. Nel contempo, con questo atto, salvò la dignità del Trentino e della popolazione, perché lui lo espresse nel senso dell'identità nazionale che andava salvaguardata e preservata per una terra italiana di confine, quale era il Trentino, con una tradizione democratica che risaliva appunto alla tradizione battistiana, no? Perché siamo dentro nella tradizione battistiana, no? Della figura di Cesare Battisti e dell'identità italiana del Trentino. Col suo atto Gian Antonio Manci salvò la dignità del Trentino, perché non ci fu comunque la possibilità di creare una mischung nei valori, nell'identità, e per quanto riguarda appunto i valori etici, perché non ci fu la possibilità di confondere quello che era avvenuto attraverso il corpo di sicurezza trentino, forme, diciamo così, di aggiustamento, perché il Trentino nella sua dignità e complessivamente la parte italiana della regione trovò in Gian Antonio Manci, nel suo sacrificio, il suo riscatto. Questo, ecco, mi premeva appunto richiamarlo, e l'ho messo appunto come testamento politico di Gian Antonio Manci. Certo, era un testamento politico federalista il suo, no? Lui quando scrive nelle lettere della clandestinità a Gigino Battisti, che il figlio di Cesare Battisti, che nell'Ossola partecipa alla Repubblica Partigiana dell'Ossola, gli dice: caro Gigino, mandaci più possibili indicazioni su come col sistema cantonale svizzero vengono preservate le libertà fondamentali e il diritto e la partecipazione attiva dei popoli alla elaborazione del pensiero politico. Mandaci tutto ciò che ci può permettere, una volta sconfitto il nazismo, a costruire in una realtà federalista europea la salvaguardia di quei valori di autonomia, di autogoverno e di democrazia partecipata dal basso che il modello cantonale svizzero ci presenta. Questo era l'atteggiamento di Gian Antonio Manci. Certo, queste lettere, che poi clandestine finirono nelle mani dei nazisti quando lo misero sotto tortura a Bolzano al comando d'armata, chiaramente, come risulta da tutte le sottolineature che durante le torture a Manci venivano fatte, di queste lettere che erano, diciamo così, la fonte d'accusa principale da parte dei nazisti. Queste lettere, tra l'altro, si salvarono grazie alla disponibilità dell'avvocato difensore d'ufficio, no? L'avvocato Ganal, che era l'avvocato difensore d'ufficio, che poi tramite Giorgio Tosi si sono conservate, e noi le abbiamo avute tramite la via dell'avvocato difensore. Ecco, bisogna tenere presente che in una dimensione regionale queste testimonianze... Il nome dell'avvocato? Ganal, l'avvocato Ganal. In quale processo? L'ufficio... Quando, cioè, dal punto di vista del processo, nel momento in cui venivano processati dal tribunale di Bolzano, veniva nominato un difensore d'ufficio. Quindi i nazisti torturavano, però le regole, il difensore d'ufficio c'era. Straordinario, ci sono tutti i verbali degli interrogatori, perché all'avvocato difensore venivano comunque consegnati. Cioè, il metodo tedesco appunto era quello della... formalmente tutto ineccepibile, e grazie a quei verbali dell'avvocato, che l'avvocato difensore conservò e che passò all'avvocato Tosi, che fu uno dei processati, siamo potuti risalire a quali erano le fonti da cui partivano i nazisti nell'accusare appunto di antifascismo e di attività partigiana Gian Antonio Manci. Dal punto di vista soprattutto dell'importanza di queste testimonianze e del testamento di Manci, perché la dimensione regionale entro la quale assolutamente noi dobbiamo vedere questo messaggio della resistenza, va salvaguardato ancora oggi. Nel senso che quando Manci viene interrogato risponde: io non sono contro il popolo tedesco e non siamo noi contro, diciamo, la cultura e la lingua e la nazione tedesca, ma contro la concreta forma che lo Stato dittatoriale ha assunto oggi, ma siamo per la collaborazione dei popoli e la collaborazione col mondo tedesco. Questi sono segnali importanti di un atteggiamento di tipo federalista e autenticamente democratico e di spirito europeo. E da questo punto di vista, appunto, io ci tenevo oggi a essere qua a Bolzano, a poterlo presentare, perché in quella dimensione di convivenza e di comprensione reciproca si è sempre mosso Manci, Gian Antonio Manci. E credo di poter dire che anche i tre testimoni di cui ha parlato appunto oggi Colangelo, e che lo ringrazio anche per aver ripreso in questo suo bel lavoro, la testimonianza di Giovanni Gozer, sta appunto richiamo all'importanza in questa regione di mantenere viva a tutti i costi, oggi più che mai, la collaborazione fra i gruppi linguistici, senza nulla togliere e senza nulla nascondere dei conflitti di quello che furono nel passato, le responsabilità reciproche, perché furono responsabilità ben precise, ma è sulla ricostruzione puntuale, antiretorica, che si costruisce poi la convivenza. Ecco, vi ringrazio anche per la disponibilità, per l'attenzione stasera a questo nostro piccolo contributo, insomma, tenendo presente che siamo di fronte a un anniversario 70°, la mia preoccupazione è che su questi valori della resistenza un po' troppa retorica è stata fatta. Io ho avuto anche l'esperienza diretta di essere stato per 6 anni segretario della rete degli istituti storici della resistenza a livello nazionale e ho colto a fine tra il 2000 e il 2003 un allentamento della tensione etica intorno ai valori della resistenza alla base della Costituzione. E non mi meraviglia che a distanza di 10 anni oggi questo allentamento della tensione etica lo si veda proprio nel metter mano con troppa disinvoltura a quella Costituzione alla quale si richiamavano i partigiani. Ringraziamo i professori Colangelo e Calì. Io vi anticipo che adesso chiederò una sorta di saluto al procuratore Costantini, perché ci ha onorato della sua presenza e mi preme sollecitarlo in questo senso. Ma vi anticipo anche che proprio con il procuratore Costantini, con il suo più stretto collaboratore, il generale D'Elia, abbiamo in programma come AMPI di organizzare una serata dedicata, mi perdonerà il procuratore Costantini perché so che forzo il suo rigore e la sua rigidità su certe, anche sull'uso delle parole, ma mi piacerebbe intitolarla I cacciatori di nazisti, perché il procuratore Costantini e il generale D'Elia, come vi accennavo in apertura, sono stati i veri protagonisti di quell'atto di giustizia che si chiama processo Seyfert, con tutta la ricerca, con tutta l'approfondimento e l'accertamento di verità che ha consentito, e quindi con questo di rendere giustizia alle molte vittime del lager di Bolzano. Procuratore Costantini. Poi avremo spazio in una serata per rifiutare il termine cacciatori nazisti. Lo sapevo. Un giornalista di un giornale bolzanino, quando stavamo discutendo il processo, dice: come sempre lì, come cacciatori nazisti. Per carità, io sono un magistrato, un funzionario dello Stato, faccio il mio lavoro doverosamente. In esecuzione dell'obbligo, che si senta ugualmente, la rompo. In esecuzione dell'obbligo stabilito dalla Costituzione dell'esercizio dell'azione penale, quindi rifiuto in quella atmosfera di antiretorica, insomma, che dovrebbe essere di understatement, insomma, necessario, perché l'esposizione e la personalizzazione della funzione giudiziaria in base in capo ad alcune persone soltanto nuoce sicuramente, a mio avviso. Un lavoro che bisogna fare nella maniera più oscura. I magistrati devono parlare con gli atti, con le sentenze, con le requisitorie e quant'altro, eccetera. Volevo, detto questo, appunto, non mi nego naturalmente a tutte le collaborazioni possibili. Volevo dire una parola. Lei ha parlato, professor Colangelo, del suicidio del conte Manci. Io ho delle forti perplessità. Inizialmente pensavo così, in base a una sensazione, la sensazione che non era possibile che si fosse suicidato. Però poi, negli atti che credo abbiamo mandato anche al Museo Storico di Trento e che ho ripreso, si parla della morte di Manci in quegli atti che i carabinieri stavano istruendo per i crimini dei fascisti, dei nazisti, pardon, qui nell'Alto Adige ma in tutta l'Italia. E i carabinieri della compagnia di Bolzano il 16 aprile 1946, scrivendo alla Procura Generale Militare presso il Tribunale Militare Supremo, Tribunale Supremo Militare di Roma, voi sapete dove furono nascosti tutti i fascicoli, no? Sì. L'armadio della Vergogna, sì, sì, l'armadio della Vergogna, che illegittimamente trattenne questi fascicoli fino all'86, fino al 96, 95, 93, quando furono scoperti, insomma. Illegittimamente bloccando per le note ragioni di politica, di realpolitik, sì, la Germania che non era più il nostro avversario, bisogna fare il cuscinetto contro l'URSS e così via. Cioè, comunque furono insabbiati questi processi. Allora, in quella occasione la Procura Generale aveva anche nel suo registro il fascicolo della la morte del conte Manci e scrisse, chiese notizie ai carabinieri, come si faceva. E i carabinieri, per firma del capitano comandante della compagnia Amedeo Girone, il 16 aprile 1946 scrivevano al procuratore generale come il conte Gian Antonio Magni venne catturato ovviamente dal Gestapo, dall'SS il 28 giugno, trasportato nella stessa giornata a Bolzano, il conte Manci venne posto in cella dove aveva sede il comando dell'SS, cioè comando del corpo militare armata, no? Sì. Comando militare territoriale, dopo quarto corpo armata, comando subalpino. Dopo aver subito varie stringenti interrogatori, il conte Manci venne sottoposto a torture. Il giorno 6 luglio, attenzione, 44, verso le 9.30, dopo lungo interrogatorio, il conte Manci venne torturato e gettato dalla finestra. Così dicevano i carabinieri, il 16 aprile 1946. Gettato dalla finestra del terzo piano dell'edificio, nel cortile sottostante, rimanendo cadavere all'istante. Venne inibito a chiunque di avvicinarsi al morto onde evitare che si svelassero le torture inflittegli. Non è stato possibile raccogliere prove testimoniali. Gli aguzzini del conte Manci erano tre, di cui finora non si è riuscito a sapere neppure i nominativi. Però nello stesso fascicolo ho trovato un'altra comunicazione di carabinieri, questa volta la tenenza di Riva, di pochi giorni prima, che però scrivevano al comando compagnia interna di Trento, dove si dice che il conte Manci fu sottoposto notte e giorno ai noti sistemi raffinati di tortura in uso nella Gestapo, sia nella sua cella che negli uffici dove veniva interrogato. Dopo 8 giorni di martirio, il conte Manci, sentendosi prossimo al collasso fisico, si sottrasse alla brutalità inumana dei suoi aguzzini gettandosi a capofitto da una finestra, eccetera, eccetera. Sì. Quindi la tesi del suicidio. Ma io ho chiesto prima a Nello Bertoldi, chi ha testimoniato sul suicidio? La segretaria di Schiffer, cioè una tedesca, una nazista. Ma allora facciamoci un esame di coscienza, mettiamoci nella testa di tedesca. Giovava di più ai nazisti parlare di suicidio o di omicidio? Il suicidio è stata una sua scelta, sì. È stata una sua scelta, sì, poi l'interrogazione non sapendo se potesse resistere o meno. È più ragionevole pensare che una serie di torture, dopo o l'hanno ammazzato con le torture, hanno simulato il suicidio, oppure era arrivato a un estremo tale, un punto tale di brutalizzazione fisica, per cui era inutile, era morente e lo hanno defenestrato, insomma. Per queste ragioni, cioè non soltanto in base a queste testimonianze dell'epoca, insomma, dei carabinieri, i quali però dovevano raccogliere le voci, perché nessuno era stato presente a questo. Certo. Dovevano raccogliere le voci. I carabinieri di Bolzano, più vicini, parlano di defenestrazione, sì, volontaria. Gli altri, a me sembra che sia più ragionevole pensare alla tesi della uccisione e non del suicidio. Era per ripristinare una cosa, siccome ho sentito sempre parlare di suicidio, sì, che è una cosa nobilissima, sì, nobilissima, ma non nulla toglie, no, non toglie alla niente. Figura splendida, sì, certo, eroica del conte Gian Antonio Manci, nulla toglie, sì, che sia stato defenestrato o che si sia suicidato. Non significa niente, perché può essere suicidato per perché le torture basta. Sono tremende le torture. Allora, di fronte al rischio di rivelare i nomi di altri insurgents, come si chiamano, di altri cospiratori e così via, c'era, si sia suicidato. Nobilissime entrambe le versioni, sotto un profilo meramente storico e razionale, a me sembra più ragionevole optare per la tesi della defenestrazione. Grazie. Del resto, per esempio, per quello che è accaduto a proposito di Mario Passi, il Museo Storico conserva il documento originale scritto di pugno da Mario Passi, per dire che effetto potevano avere anche le torture. Lui a un certo punto: mandatemi del veleno, compagni, perché non ce la faccio più. E Montagna ha firmato, che era il suo nome di battaglia, il suo pseudonimo. Quindi, cioè, anche questo è plausibile. Però il tentativo nulla toglie all'eroismo. Sì, sono assolutamente convinto. Ecco, su questo bisogna dire, per verità storica, che la testimonianza di un esponente pure importante della Resistenza, come è stato Mario Bernardo, che scrisse Il Momento Buono, questo libro in cui ricostruì la Resistenza nell'area veneta, vi fu appunto un giudizio invece su Manci che tendeva a far pensare che in qualche modo lui avesse in qualche modo fatto qualche nome. Questo, ecco, va ribadito con forza che lui non ha fatto nessun nome, non ha resistito alle torture, e mi sembrava doveroso richiamarlo questo fatto, perché in quel libro Il Momento Buono c'è un atteggiamento riguardo di Manci che non fa giustizia della figura, come Costantini ha richiamato, che è una figura eroica, che non a caso Manci si ispirava alla figura di Cesare Battisti. Quindi siamo nel pieno di una tradizione dell'identità nazionale italiana in senso positivo, dei valori autentici della nazione, che non vanno mai dimenticati anche in un momento in cui si parla di Europa, però italiani, trentino o tirolesi che siano, ed europei, lo sono nel momento in cui si riconoscono i valori etici delle figure che ne hanno rappresentato al meglio, no? La piena anche italianità, credo. Sì, forse vale la pena come coda aggiungere il fatto che Mario Passi è stato il primo a contravvenire a una regola che i comunisti avevano, e cioè di avere sempre a disposizione una fialetta di cianuro. È stato lui che raccomandava agli altri, era estremamente meticoloso, come era tipico delle formazioni comuniste, e lui non ce l'aveva a disposizione la fialetta di cianuro. Comunque ha ragione quando dice che in fondo questo nulla toglie, assolutamente, sono assolutamente. Per una questione storica, giudiziaria, se vuoi, ho indagato anche questi fatti, senza arrivare a niente sull'identità di chi fosse stato, o meglio, di una persona che era morta. Sì, certo. Sto facendo una domanda. Abbiamo a Bolzano, l'abbiamo raccontato, testimonianze di persone a noi vicine che hanno testimoniato quando hanno scoperto che Manci era stato arrestato, perché Manci è stato arrestato e portato nella caserma dei carabinieri che stava in via Dante, e l'hanno visto attraversare il ponte Padova la mattina con accanto due della Gestapo, hanno visto passare sul ponte Padova con le scarpe slacciate, prendendo una scarpa per strada, e loro hanno capito che lo portavano al corpo d'armata. E siccome pensavano che lo riportassero in via Dante, avevano pensato anche a trovare il modo di sorprendere quelli che lo trasportavano e di liberare Manci, cosa che non è avvenuto, perché la sera stessa hanno saputo che Manci era morto dentro il corpo d'armata. Non è rimasto 8 giorni dentro il corpo d'armata, è morto ben presto dopo il primo interrogatorio. Per questo Manci non può aver parlato con nessuno, né se si è suicidato, né se è stato ammazzato. Manci non ha avuto la possibilità di parlare con nessuno. Nessuno di noi è stato mai torturato, la tortura è una cosa insopportabile, va bene? Abbiamo la tortura, ecco, arrivo a quello che hai detto di Basi. Il biglietto di Basi dal carcere di caserma di Belluno è stato mandato fuori da Tea Palma, che l'ha mandato alla sua documento. È da Tea Palma che manda fuori il biglietto per liberare Basi. Perché io mi ricordo addirittura anche una nella caserma di Belluno, dove c'era Basi, c'era Fracciller, erano tre che conosciamo, che contemporaneamente nella stessa cella Raciti sapeva che nella prima cella c'era l'Emiliano e sentivano l'odore perché aveva le carni in putrefazione. Marci era nella prima cella che guardava il luogo dove avrebbero dovuto andarsi a lavare. E te a Palma manda fuori il biglietto, mandatevi il veleno. Questa è la storia che abbiamo raccolto dalle testimonianze, certo, che abbiamo vicino a noi. La stessa cosa vale per il percorso fatto da Manci fino al corpo d'armata e la sua fine sicuramente dalla finestra del terzo piano, che era l'ufficio di... Comunque la poesia come sempre aiuta, perché, perché quando Mario, cioè, Tobino parla di Pasi e dice: sei stato il più bel italiano di mezzo secolo. Sì. Il più bel italiano di mezzo secolo, Mario Tobino, che era, amico di Mario Pasi, perché avevano studiato all'Università di Bologna insieme. Ha scritto un libro di tre amici. Sì. Tre amici, l'altro era Aldo Cucchi, capo dei GAP a Bologna. Comunque dice, appunto, quando lui dice appunto Mario Pasi era un giovanotto, sì, veniva dalla Romagna, sì. E dice appunto: sei stato il più bel italiano di mezzo secolo. Queste sono le figure che appunto è bene sempre ricordare, Manci e Pasi, come, diciamo così, alla base di quella che è la democrazia di questa nostra regione, insomma. Posso dare una storica informazione? Una delle cose che ho osservato guardando con trasparenza i libri e le testimonianze è che gli unici che avevano la coscienza della clandestinità erano solo una formazione comunista. Certo. Tutti gli altri non ce l'avevano. No. Pasi è venuto a Bolzano e è andato a visitare il suo collega del CLN di Bolzano nell'ufficio che stava davanti al corpo d'armata. È andato a visitare Longon al corpo d'armata. Sì. La cosa più inverosimile che e lo so dal telefonista di Longon, che sa che è venuto il conte Manci a visitare Longon dentro il suo ufficio. Quindi alla faccia della clandestinità, perché era la cosa più pericolosa che poteva esserci, che i due responsabili del CDN di Bolzano si incontrassero nello stesso ufficio. Mascagni, quando scappa dopo essere passato, va nella grotta che sta sul Gran Pilastro, dove ha collocato la missione vitale, ma va anche lì a rifugiarsi, perché ormai Mascagni è bruciato, sì, e da lì parte per raggiungere Milano, eccetera, e trovare contatto con la resistenza a Milano. Trova contatto con tutti, con i socialisti, con gli azionisti, eccetera, ma non con i comunisti, che scopre solo dopo il 25 aprile, sì, perché i comunisti sono sottoterra. Sì, sì. La differenza sostanziale della clandestinità è stata questa. Diciamo che su questo, confermando quanto Bertoldi dice, c'è il bel libro in cui racconta la sua esperienza, Renato Ballardini. Lui nelle prime pagine di quel libro ricorda che l'atteggiamento fu molto disinvolto dei giovani, sì, e da Sarti dice: state attenti, non fidatevi di Fiore Luterotti. State attenti, che le regole della clandestinità sono tali che, insomma, se non si sta attenti si rischia grosso. Riconosce nel suo libro Il Pesciolino Rosso, Renato Ballardini, che l'eccessiva disinvoltura con cui si erano mossi era stato uno degli elementi, sì, poi che hanno... Questo nelle testimonianze comincia ora, dopo 70 anni, ad emergere, no? Direi che Renato Ballardini... La testimonianza importante, è il primo che dice: noi siamo stati troppo poco attenti alle regole della clandestinità, no? In quel momento. C'era in fondo. Sì, se ci sono domande, poi Maurizio. Molto bello, però c'è Guido Margheri che presiede il Consiglio Comunale. Il fatto, come tu dicevi, io credo che ci sia molto lavoro da fare, non si detume solo dalla bastonatura che ha preso il giovane qua, si desume anche al fatto che qualche sera fa, se non sbaglio, tu mi correggi, vero Guido, se sbaglio, il Consiglio Comunale si è parlato proprio di quello di cui abbiamo parlato noi questa sera, cioè del sacrificio di Manci. E sono emerse a 70 anni di distanza delle perplessità, addirittura l'etica del suicidio, oppure sempre io non c'ero, quindi chiedo ma di queste cose sarebbe ora di smettere di farlo. Se questa è la storia condivisa, non ci sta. No, siccome ogni tanto ci sono gli appelli alla benedetta storia condivisa, che dovrebbe essere quella che mette storia condivisa, non può essere di queste storie, non parliamo più, perché tutto quello che stiamo dicendo, che state dicendo questa sera, dimostra che invece non solo bisogna parlarne, ma hai perfettamente ragione su quello che è successo attorno al campo di concentramento, che ripeto, assieme a tante altre cose, è stato una specie di buco, di vuoto nella memoria storica di Bolzano fino a qualche anno fa, quando il lavoro impagabile dell'archivio comunale lo ha riportato, perché chiamo Cesare perché dice è della cava del Monte, che è beh, insomma, le cose sì, sì. È stato un buco nero nella memoria e nella coscienza di questa città, e sarebbe ora di bellissima l'idea di cominciare a scavare perché, in questo, e di capire e quello che è successo nel Consiglio Comunale. Adesso non voglio fare, ma è molto preoccupante, eh? Non è poco preoccupante. Comunque Ferrandi, in questo la testimonianza di Serra che noi abbiamo raccolto sull'area di Bolzano è molto indicativa, nel senso che dice, questa è una testimonianza in cui dice proprio del contesto che ha permesso, è una testimonianza molto importante. Il testimone di Vercelli, vecchia, che fu ristretto perché era antifascista, catturato nel lager, dice che quando andavano a lavorare al Virgo venivano beffeggiati, gli sputavano addosso gli abitanti della nostra città. Non dimentichiamo queste cose, vogliamo risalire. L'altro Agile sul Tirol non doveva essere regalato all'Italia, fu regalato nel 15 con la promessa che passasse dal campo nel campo delle altre potenze, insomma. Una contraddizione, un controsenso. Desidero ancora dire una cosa, siccome ho poca occasione ormai di dire le cose. Allora, in effetti a Bolzano il fascismo e il nazismo avevano distrutto ogni possibilità di incontro con le popolazioni. Col fascismo prima, e poi con le opzioni, avevano reso impossibile qualsiasi comunicazione tra una popolazione e l'altra, erano popolazioni estranee, nemiche, e questa è stata la questione, che la resistenza è stata possibile a alcuni eroi hanno fatto resistenza, ma alcuni eroi anche di lingua tedesca. Mi domandate se i tedeschi non sono stati antifascisti, sono stati antifascisti e antinazisti, e hanno patito le stesse sofferenze andando nel lago di Bolzano. Sono stati più i sudtirolesi passati nel lago di Bolzano di questa provincia che gli italiani di questa provincia. Dobbiamo saperlo. Tutti i parenti di disertori, Zipper, messi come ostaggi, venivano tutta la famiglia allargata, veniva portata in campo di concentramento. C'è una ragazza che ha la mia stessa età, Agnes si chiama, che è stata portata in campo di concentramento e poi portata a Vipiteno a far la schiava, perché ha fatto la schiava, e non gli hanno riconosciuto che essa è passata dal lago di Bolzano. Avevo la stessa mia età, allora avevo 17 anni. Così è stato per i sudtirolesi qui. Dobbiamo capirlo. E i sudtirolesi sono passati nel lago di Dachau. Dobbiamo sapere che da Bolzano i sudtirolesi che erano antifascisti e antinazisti sono finiti nei laghi. Se non distinguiamo questo, non abbiamo radici, non abbiamo una possibilità. Io sono d'accordo che occorre una storia comune per queste popolazioni, non una memoria comune. Le memorie sono qualche cosa di diverso, di profondamente diverso, ma la storia comune sì, almeno da quel luogo di sofferenza e di martirio che è stato il lager, lì è possibile, si è iniziata la vera storia comune per queste popolazioni che si sono riscattate dal fascismo e dal nazismo. Da lì possiamo partire, e non è scontato, perché noi abbiamo una grande opportunità di costruire una società di cosiddetta dell'incontro come esempio europeo, ma dobbiamo tener conto che è possibile solo se abbiamo un inizio da cui iniziare una storia comune. D'altronde le prime vittime del nazismo furono i democratici tedeschi, quindi certo, dire, sì. Questo è stato fatto per poco, no? Adesso detta così sembra che tanto anni di allora fosse anche un nazista, sì. No, è stato qua. bisogna parlare di minoranze. Non hai ragione, ha assolutamente ragione. È vero che si mette in discussione, però l'Alto Adige è un nazista. 90 stiamo parlando. Era germanico, pan-germanico. Comunque il valore delle testimonianze, cioè le poche forme di resistenza che ci sono state in questa regione, sia da parte di abitava a Fangato, che ha la palla d'acciaio di fuori, Nico Lucile, era un capitano delle Waffen SS che ha contribuito a fare sparire i gerarchi nazisti, questo è tutto. Cioè, queste cose qua sono scritte. Questo che lei dice, certo. Io sono stato a Praga in vacanza a novembre, sono andato a fare il giro delle sinagoghe e lì dentro, a un certo punto, ho fuori questa frase da una guida turistica, sì, perché Bolzano, i ritorni di Bolzano hanno fatto scappare i gerarchi nazisti. Cioè, a Bolzano, in Alto Adige, di questa cosa qua, non se ne è mai parlato. Sì, nessuno sa niente, ci sono i libri. Beh, adesso sono usciti due libri, ma voglio dire, ci sono adesso. C'è una copertura su questa cosa qua, su quello che hanno fatto i tedeschi in Alto Adige, che è vogliamo ancora. Però io penso che, come mi diceva, no? Sfruttando il lavoro che hanno fatto questi signori, ad esempio Manci, e la visione di Manci, che era una visione che metteva assieme, no? le due gruppi etnici, che dava dignità a tutti e due. Allora forse si potrebbe cercare di fare vedere Manci con questi occhi all'altra parte, quindi magari di far conoscere di più queste persone facendo noi di più cultura verso la parte tedesca. Noi non possiamo muoverci per gli altri, lei ha ragione, ma noi non possiamo muoverci per gli altri. L'unica cosa che uno può fare è quella di dire: io mi muovo per me, cerco di parlarti. Io quindi, come italiano, vengo da te e ti dico: guarda, ho preso da questo libro dei signori che ho visto questa sera questo incontro e Manci aveva questa idea, e magari scriverglielo in tedesco sul loro giornale. Così si fa, secondo me, passando la comunicazione, passando le informazioni e non negando i nostri. Noi siamo stati fascisti, va bene, siamo stati fascisti. Loro per me sono stati nazisti, qualcuno era al di fuori, finiamola, tutti hanno i loro lati negativi, ma partiamo da adesso, cerchiamo di evitare di fare stupidaggini ulteriori, questo secondo me, no? Se no continuiamo, e questo non vuol dire nascondere, vuol dire guardare tutto, certo. Però dobbiamo farglielo vedere senza fargli sentire troppo Comunque quello che lei dice, volevo aggiungere un chiarimento a quanto ha detto il signore, cioè la regione del Sud Tirolo è l'unica regione di tutto il mondo, diciamo, di lingua tedesca che non è stata denazificata, non perché lo dico io, lo dice la storia. Cioè la Germania dopo la guerra ha subito un processo speciale di denazificazione. La stessa cosa c'è stata in Russia, nella zona dove c'era la popolazione di lingua tedesca, la stessa cosa in Polonia, cioè in tutti i paesi, in tutto il mondo, dopo la seconda guerra mondiale, il Sud Tirolo è stata l'unica zona che non è mai stata. Ma non è neanche stata in parte defascistizzata. Esatto. È vero, siamo una zona di confine, no? È vero. Comunque quello che vorrei richiamare il fatto che, a maggior ragione per quello che voi avete detto sulle condizioni reali sociali e politiche di questa regione, le poche testimonianze di resistenti hanno un valore addirittura superiore a quello che hanno avuto nelle altre regioni in cui la resistenza è stata più facile, no? Dal punto di vista dell'organizzazione. Questo fatto qui dà a queste figure della resistenza, sia per la parte tedesca che per la parte italiana, un valore addirittura superiore a quello di altre regioni. Questo va sottolineato sempre, no? Perché il contesto, ha ragione lei, era quello, no? Quindi è chiaro che essere antinazisti o antifascisti, resistenti in un contesto come quello, e voleva dire firmare la propria condanna a morte. Sì, pericolosissimo. Pericolosissimo. Luca, mi stupisce ancora che non emerga il ruolo che ha avuto Bezzano subito dopo la fine della guerra nel paese di Mitoli, nel proteggere dei personaggi. Beh, Steinacker sta facendo, adesso c'è Steinacker, Steinacker sta facendo dei lavori molto importanti sul quel libro lì non è neanche più. C'è in biblioteca. In biblioteca c'è, perché l'ho appena letto, ve lo posso garantire. E sì, ci sono, per esempio, lei citava Piano, cioè io sono andato a vedere i libri dell'anagrafe del comune di Termeno con fogli mancanti per diversi mesi, sono straordinari come. Secondo me vuoto in quel tipo. Certo. Hanno avuto un ruolo veramente importante. E permettetemi anche una piccola parentesi. Guai parlarne, perché probabilmente, consentitemelo, c'è anche un coinvolgimento diretto non solo della Croce Rossa italiana, della Chiesa, di alcuni settori della Chiesa. Però appunto si può fare saltare fuori. Ecco. Quel signore lì di cui parlava di Francato ha avuto un ruolo anche in provincia, istituzioni. No, c'è dubbio. Era uno dei fondatori. Sì. Cioè Wikipedia lo fa. Questo è scritto, il nome Wikipedia ci ha spiegato in 10 righe chi era, cosa ha fatto e che ruolo ha avuto. Il museo reclama tra i suoi fondatori. Con orgoglio. Allora andiamo con ordine, perché altrimenti perdiamo il filo. Presidente Margherita. Allora, stimolato da Giuseppe Fernandi, devo dire che. Che cosa è successo in questi, non solo l'altra sera, ma in questi anni? Che noi abbiamo cercato di fare una serie di atti che in qualche modo riuscissero a superare le cose che venivano citate anche prima. E tra le cose che abbiamo fatto c'è stato in particolare due atti. La prima è stata la cittadinanza onoraria a Josef Mengelser, e nella stessa giornata a Franz Haller, con tanto di sindaco di Salentino, famiglia e amici, e proseguendo su questa strada, insieme anche con l'onomastica cittadina, siamo arrivati l'altra sera alla cittadinanza onoraria, in questo caso alla memoria, per Gian Antonio Manci. In realtà questa cosa era collegata con altre due cittadinanze onorarie che però per varie ragioni e per la discussione che c'è sempre in questi casi non sono andate avanti, andranno avanti come spesso succede. Oggi abbiamo inaugurato la scuola ad Alex Langer, dopo 15 anni che se ne discuteva, quindi le cose vanno avanti in realtà, bisogna sempre avere speranza. Le altre due credo che fossero significative, perché una era Magno Lunghi, proprio per il fatto della comunanza laddove si ricorda, perché anche Magno Lunghi ha una sua lapide proprio davanti al quarto corpo d'armata, più o meno laddove Mancia. L'altro era Hans Gerter, e Gerter è ricordato da pochissimi anni grazie all'Ampi e successivamente alla giunta comunale di Bressanone, in una piccola cerimonia che viene fatta tutti gli anni al cimitero di Bressanone. E Gerter, come tutti gli antifascisti sudtirolesi, Andreas Hofertund e tutta una serie di altre cose rappresenta, e, oppure una gran parte dei Dubliner, quindi rappresenta sicuramente un punto di riferimento per poter riunificare il discorso, sapendo che il discorso va unificato, come diceva all'inizio Colangelo, e cioè che antifascismo e antinazismo devono andare di pari passo, senza oblii da nessuno delle due parti. Perché, per esempio, se io sono sicuro, non l'ho letto il libro, lo leggerò, che una delle cose cui ci ammoniva Mascagni, per esempio, e ci dava sempre dei punti su questo, era che dopo il 45 a Bolzano spuntarono dei falsi partigiani, o per meglio dire erano dei fascisti, sì, che in funzione antitedesca e nazionalista, sì, tentarono di fare tutta una serie di operazioni, tutto il resto, adesso è inutile citare i nomi anche di persone che non ci sono più, forse saranno gli storici insomma ad approfondire. Per cui secondo me le pagine, come dice giustamente Giuseppe, prima di essere condivise intanto vanno conosciute, perché guardate, sentirsi dire in Consiglio Comunale, per fortuna la minoranza, che poi alla fine è passata a stragrande maggioranza, però anche in occasione della cittadinanza onoraria a Maria Rossa e soprattutto a Franz Tal, che era lì con noi, ci fu chi osò dire che era un disertore, che quindi non andava, cioè, voglio tanto per dare io credo che bisogna, sì, andare avanti, credo che ci sia troppa paura delle divisioni che si costruiscono, perché sono anche convinto che andando avanti queste divisioni perdono. Però Nello è qui, e avendo fatto con lui e con Mascagni un'esperienza nel 95, cinquantesimo della liberazione, noi andammo in delegazione a chiedere i soldi all'allora presidentissimo Luis Novalda, il quale ci disse con grande chiarezza: io vi do tutti i soldi che volete, fate quello che volete, ma ci sono delle pagine, delle ferite che è meglio non riaprire. Tanto è vero che a quelle cerimonie lui venne a una sola, che venne quando noi chiamiamo proprio nel nome dell'Europa democratica e tutto il resto, che allora cercavamo di allargare, l'ambasciatore austriaco Steiner, a raccontare la sua testimonianza di costruzione di una pagina avanzata. E in quell'occasione, per la prima volta, Silvio Smagnano, che voi sapete benissimo la storia personale che ha, la campagna di Russia, tutta una serie di cose, strinse la mano a Franz Thaler. Galeotto fu l'aver rimesso insieme vicino a una sedia, può darsi che fosse soltanto per educazione, ma da quel momento lì quella storia fu promossa poi anche da Dolomite e fu in qualche modo, certo, diciamo così, diventò anche una cosa comune. Io sono convinto che i passi avanti si costruiscono anche così, e questo libro secondo me è il modo antiretorico come è stato presentato, così come abbiamo cercato di fare con Maci l'altra sera, sono un passo avanti. Dopodiché è ovvio, c'è chi è stato compromesso, guardate, sottoscritto ha presentato da 15 anni fa una mozione perché il nome del Real Gymnasium di Via Fago era von Klebersberg, fosse insomma personaggio compromesso con il nazismo, l'abbiamo scoperto su Twitter, fosse in qualche modo rimosso. Bene, tutt'oggi è stato finalmente rimosso, c'è ancora sul letto del pubblico e la scuola è senza la proposta di intitolare la Rosa Bianca. Abbiamo rilevato questa proposta non più tardi di poche settimane, un pochino l'anniversario della Rosa Bianca. Non abbiamo fino a questo momento avuto risposta, siamo fiduciosi di averne una quanto prima. E vi do appuntamento. C'era Bombonato forse che voleva dire qualcosa? Sì. Vai. Posso, certo. Ancora punto, condivido molto la necessità di far conoscere la storia italiana e tedeschi, la storia tedesca e italiana. Se questo può far piacere, volevo comunicare soltanto che da ormai quasi 2 anni stiamo utilizzando il rifugio antiaereo di Via Fago 14. Abbiamo preso in gestione la mia, una cooperativa che si occupa di eventi culturali, l'abbiamo preso in gestione perché lì dentro, all'interno di questo ambiente enorme, si parla di circa 7.000 metri quadrati scavati nel porfido, nel Muncina, quando noi abbiamo ospiti, e sono soprattutto classi di giovanissimi, abbiamo anche qua le fisiche elementari, scuole medie, superiori, italiane e tedesche. Non ci facciamo riguardo a parlare della storia da una parte e dall'altra, cioè di parlare della storia in maniera oggettiva. Certo. e lo facciamo senza tentennamenti, sia le persone di madrelingua tedesca sia le persone di madrelingua italiana, anche persone anziane naturalmente, che possono avere una visione forse parecchio filtrata nel tempo. E quindi voglio condividere con voi questa sera questa cosa, informandovi di questa nostra iniziativa che sta andando avanti ormai da molto, dove riportiamo moltissime testimonianze che ci sono state regalate da persone che hanno vissuto bambini di bombardamenti a Bolzano, però noi facciamo anche un piccolo passo indietro. Noi partiamo da una storia che risale alla fine dell'Ottocento, certo, con i nazionalismi, certo, con i redentivismi, eccetera, che sono poi in realtà le origini di quello che è successo dopo, perché vogliamo fare chiarimenti anche sotto questo profilo, per cui parlare delle sofferenze di tedeschi e di italiani in quello che è il periodo che va dal 1880 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ho uno splendido ricordo di un concerto della banda degli Alpini di Gries proprio dentro quel rifugio antiaereo. Concludo dandovi appuntamento alla serata sui cacciatori di nazisti, non me ne vorrà molto tra virgolette, non me ne vorrà il procuratore Costantini, perché evidentemente tra me e lui si scontra la cultura del magistrato e la professione giornalistica che voi sapete ho fatto per quasi 40 anni. Sono logiche che hanno lo stesso obiettivo, se vogliamo, ma magari in modalità diverse. Certo. Troveremo sicuramente una convergenza per titolare quella serata, che sarà, come avete sentito dalle parole del procuratore Costantini, sarà particolarmente interessante. Credo che adesso dovremo concordare le date, ovviamente in base alla disponibilità sia del procuratore Costantini che del generale De Via. Spero entro i primi di maggio di riuscire a fare questa cosa, perché abbiamo anche, e ve lo voglio ricordare, perché noi ci stiamo avviando proprio puntigliosamente e con impegno verso un dialogo interculturale e multilingue, una serie di appuntamenti come ANPI per parlare alle scuole sia di lingua italiana che di lingua tedesca, e le portiamo spessissimo al muro del lager di Via Resia per spiegare loro che cosa succedeva in dietro quel muro bello e restaurato. E c'è anche un'iniziativa però che sarà fra pochi giorni con 28-29, esatto, con il presidente Bertoldi. Andremo con due classi, una di lingua italiana e una di lingua tedesca, delle scuole superiori di Merano, a Marzabotto, a Casacervi e a Montesole. È un'esperienza, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, che lascia un segno nei ragazzi, sia di lingua italiana, soprattutto quelli di lingua tedesca, perché vi assicuro, vedere i ragazzi di lingua tedesca percorrere i sentieri di Montesole e ripercorrere passo passo le tragedie e gli eccidi compiuti dai nazisti di lingua tedesca, in loro provoca, non dico imbarazzi, provoca dei sentimenti di autentico dolore, e lo vedi sulle loro facce. E questo è un dato confortante, perché vuol dire che c'è spazio per l'autocoscienza, per la consapevolezza, per l'accrescimento della conoscenza della storia, e quindi anche di costruire poi la vita quotidiana di oggi. Ecco, questo per darvi alcune informazioni, e poi l'appuntamento grosso sarà con Costantini e De Via, e vi assicuro che sarà una gran bella serata, perché loro hanno... Sì. Grazie. Okay.